Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9:07 minuti e inizia una nuova settimana di Uno Nessuno 100.000, quella settimana che ci porterà al Natale, ma mica una settimana come le altre, eh? È la settimana numero 14, quattordicesima settimana decisiva per la riforma elettorale dopo il referendum, decisiva, eh? Quindi forse l'albero di Natale, sotto l'albero di Natale troveremo la riforma elettorale la quattordicesima settimana, chi lo sa. Per il resto non cambia nulla, no? Che attacca, palla profondità all'inserimento di Leo, il tiro rete, che veloce, subito il vantaggio del Milan, mamma mia, 8 secondi e 8, anche 6 secondi e 20, mamma mia, e che è Usain Bolt. Vabbè, niente, dai, su, abbiamo questa rosa da sesto posto, Massimo, che si sta comportando per il momento bene, ma verremo risucchiati presto. Dai, Ale, avanti alle 9:08, siamo con voi, se volete chiamarci all'800 24 00 24, se volete scriverci al 349 238 6666, e se volete anche scriverci 100.000@radio24.it. E allora vai, Alpino. I will not be easy and it will not be easy. Signori, ci mancava il virus mutato, la mutazione del virus, eh? Che sta allarmando adesso, la chiusura anche dei voli aerei con la Gran Bretagna, che secondo molti non ha granché senso. Abbiamo sentito anche poco fa la virologa Viola da Simone Spezia dire che questa variante del virus è stata riscontrata da settembre. Quindi sono passati già 3 mesi, ma mi ha colpito soprattutto oggi il virologo Giorgio Palù, intervistato dalla Stampa, tra l'altro è il nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dire: ma piano con gli allarmi, tutta questa agitazione per la variante inglese non è giustificata da dati scientifici, si tratta di sequenze del genoma, non c'è dietro alcuna biologia. Non ci sono prove che la mutazione renda il virus più letale o gli consenta di sfuggire ai vaccini. Definirei tutto questo un eccesso di prudenza figlio di una visione allarmistica della pandemia. Il virus è mutato dal prototipo di Wuhan già migliaia di volte, non una, non cento. Migliaia di volte, e finora nessuna mutazione è stata correlata con un aumento della virulenza, cioè con una capacità del virus di fare più male e di uccidere di più. Così il professor Giorgio Palù, intervistato da Niccolò Carratelli sulla Stampa. titolo: allarmismo ingiustificato, il vaccino resterà efficace. Oh, non lo dico io, lo dice il virologo Palù. Però è inevitabile adesso qualsiasi notizia, siamo entrati un po' nell'era, nell'epoca anche giustificata della paura, siamo spaventati da tutto, un po' giustamente, un po' forse in maniera di reazione psicologica eccessiva, sta di fatto che questo è. Oh, tra l'altro anche oggi Repubblica, vedo che titola pagina 4 del gioco dell'oca per le vacanze natalizie. Io giuro, non mi sono rifiutato, ogni tanto dico starò a casa, questo farò, mi sono rifiutato di studiare esattamente cosa posso fare il 23 e il 24, tanto io so che il 24 sono qui e devo portare la certificazione, questo è indubbio visto che è zona rossa. Fino al 24 non ho problemi, poi il 24 mi blindo a casa, sto a casa, se devo uscire, non lo so, mi guarderò con fare circospetto, farò 10 metri, poi rientrerò a casa. Mi sono abbastanza rifiutato di studiare tutto quello che dovrei fare o potrei fare il 24, 25 e 26. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Infatti questo farò. Esattamente, caro ascoltatore, tranquillo, farò questo, di base farò questo in questo gran bel Natale, chiudermi a casa e stare a casa, che altro c'è da fare. Ministro Speranza, sentiamo il ministro Speranza sulla variante, la variante. Quello che sappiamo è che il virus è sicuramente più veloce nel propagarsi, non sembra fare maggiori danni rispetto alla variante precedente sull'individuo, ma è chiaro che un virus che si propaga più velocemente produce più contagiati. E quindi subito la paura aumenta. In tutto questo, pensare al rientro del 7 gennaio, pensare alla riapertura delle scuole, ormai c'è solo Lazzolina praticamente che cerca di puntare su questa riapertura delle scuole, cioè nel senso che insiste sulla riapertura delle scuole. Sentiamo Lazzolina. Ma se noi lasciamo a casa i nostri studenti a fare solo didattica a distanza, è il paese che un giorno perderà competenze. La scuola è anche motore di sviluppo economico del paese. È soprattutto uno dei motori di sviluppo economico del paese, magari non traducibili con una fattura a fine mese, ma in prospettiva di anni e in prospettiva futura, certamente sì. Credo che la pensi così e lo saluto il professor Massimo Cacciari che torna con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. No, non è che la scuola fattura a fine mese, però credo che sia una fonte... Il paese fa i conti, un paese fa i conti se non c'è una scuola che produca conoscenze e produca cervelli. Il paese che fa i conti, drammaticamente. I conti in rosso. Guardi cosa sta investendo la Cina in formazione. Anche l'India, ormai ci hanno un po' sorpassati. Insomma, ma da sempre, non da ieri. Senta, lei ha capito, oggi vedevo su Repubblica che si titolava questo gioco dell'oca, però il tema è interessante, cioè il tema tra libertà, sicurezza economica, salute, un tema filosofico che forse la interroga abbastanza, cioè dove porre i limiti, i paletti, e se sono in concorrenza questi valori, il valore dell'economia, il valore della salute, il valore della vita biologica. Ma fin tanto che non è superata l'epidemia c'è poco da fare, voglio dire... Cioè non è che tu possa pensare che riprenda l'economia eccetera finché siamo in questa situazione. Anche i settori più colpiti non possono pensare di riprendersi fin tanto che c'è questa pandemia che circola in modo così drammatico. Quindi questo non c'è dubbio. La cosa che colpisce è l'inconsapevolezza cioè il fatto che la cosa venga affrontata senza alcuna considerazione di quanto pericolosa sia la situazione anche dal punto di vista della democrazia e dei diritti. Cioè non mi sembra che vi sia consapevolezza che una situazione di questo genere, protraendosi nel tempo, può davvero produrre può davvero avere delle conseguenze gravi sull'assetto della nostra democrazia. Basti pensare alla concentrazione dei poteri decisionali in capo ai governi. E quindi ora è anche una situazione, diciamo così, di emergenza e di necessità, ma la si affronta la giornata, la si affronta senza rendere consapevole le forze politiche, le persone, eccetera, eccetera, che viviamo una situazione obiettivamente gravida di pericoli per i nostri assetti democratici e per i nostri diritti. Questa è la cosa che mi colpisce, che si vada avanti continuamente a decreti, a volte nel casino, mi scusi il termine, più incredibile, perché sfido qualcuno a comprenderci qualcosa di come dobbiamo poi alla fine comportarci in questi benedetti giorni tra rosso, arancione, giallo, due parenti, tre parenti, quattro parenti, sì. 20 chilometri, 18 chilometri, 21 chilometri. Ho deciso di rinunciare. Ma è una cosa folle, no? Anche questo normativismo scatenato e delirante, stabilisci delle regole poche e comprensibili, insomma, viva Dio, e soprattutto delle norme che non siano ridicole, cioè che permettano poi un accertamento e una verifica effettiva. Mi dica lei come faranno mai a stabilire cosa mi mandano, la polizia dentro casa per stabilire se sono in tre o in quattro? Questo no, ma hanno già detto di no. Senta, ma e allora cosa scrivono quella norma a fare? Ma secondo lei fino a quando si potrà prolungare questo stato di emergenza? Poi qualcuno lo porrà il dibattito che dice lei sugli assetti democratici. E chi mai lo pone? Nemmeno le forze che una volta si dicevano di sinistra lo pongono. Cioè, voglio dire, io mi ricordo quando ci fu una stretta, per carità, dal punto di vista politico e sociale, incomparabilmente più drammatica, come degli anni di piombo. Sì. Ma il dibattito che ci fu sulle leggi d'emergenza, sulle leggi che appunto dovevano andare per colpire il terrorismo, dovevano introdurre nel nostro ordinamento norme molto pericolose, quelle che poi portarono a colpirlo il terrorismo, insomma le leggi che riguardavano i pentiti, i dissociati, eccetera, eccetera. Il dibattito che ci fu. Qui ci va alla giornata, cioè proprio non c'è visione sì, assoluto, sì. Né su questa questione né su quella delle conseguenze economiche e sociali di questa crisi non c'è visione. Possibile che nessuno dica delle drammatiche conseguenze sul piano delle ingiustizie, delle differenze sociali, delle disuguaglianze, dell'aggravio delle disuguaglianze? Nessuno che ponga la questione di come questa crisi debba essere affrontata da tutti e pesare su tutti nelle forme più egualitarie possibili. Ma sa, professor Cacciari, in questo caso, almeno leggevo per esempio quello che diceva il professor Agamben, filosofo, c'è in ballo la vita biologica, il valore della vita biologica, non della qualità della vita, quindi della lunghezza, della durata della vita, in qualche modo annulla tutto il resto del dibattito. Si vuole vivere di più, un giorno di più, sempre. Sì, questa storia della vita, cioè, è vero, è chiaro, ma è altrettanto vero che se non difendo anche la vita biologica è difficile che io possa avere una buona vita, quindi c'è un'epidemia, e non sto discutendo di questo, ho fatto un discorso molto realistico, se vuole pragmatico. C'è questa epidemia dura molto di più di quello che si pensava, non si sa neppure ancora per quanti mesi dovremo andare avanti con questa cosa, quindi la situazione sta diventando pericolosissima dal punto di vista politico dei diritti e pericolosissima dal punto di vista sociale ed economico. Bene, vogliamo comprendere se questo governo ha visione del problema e si comincia ad affrontarlo ora, perché il dopoguerra non è stato affrontato nel maggio del 1945. Sì, ma prima. Chi combatteva il fascismo e il nazismo aveva già un'idea precisa di come dovevano essere gli assetti del dopoguerra o no? O hanno combattuto il fascismo alla giornata, battaglia dopo battaglia, Insomma, questo è il punto. Mi dicono che è una guerra e allora la affrontino come una guerra, viva Dio. Con una visione, lei dice, quella visione che manca. Senta, invece qua la visione è l'ennesimo, è l'ennesimo penultimatum o ultimatum politico. Ma secondo lei in questo momento ci possiamo permettere una crisi di governo o una situazione? Ma si figuri, questo diciamo, finora abbiamo parlato di cose serie e adesso entriamo nell'ambito di questo incredibile spettacolo che dà la politica italiana. In una situazione di questo tipo, in cui ci sono milioni di italiani che vedono crollare il proprio reddito e entrano addirittura in una dimensione di povertà. I problemi che abbiamo affrontato, i morti eccetera eccetera, e questi discutono di che, ma c'è qualcuno che può capire? C'è qualcuno che può capire? Ma ci sono alternative? Ma dove? Ma mandino a casa Conte per fare che cosa? Con chi? Fare un governo di unità nazionale? Lo facciano, se ci sono le condizioni facciano un governo di unità nazionale. In questa situazione non sarebbe neanche poi questo grande scandalo, ma è chiaro che non lo possono fare. Ma perché non lo possono fare? Perché non hanno nessun punto di veramente di unione sulle questioni di cui stavamo parlando. Sì. Cioè non c'è nessun punto di unione su come affrontare nel medio periodo la crisi e le sue conseguenze. Quindi che cosa stanno a parlare? Non c'è alternativa a questo governo. Anche se il tema sulla presunta crisi è un tema centrale, cioè la questione dei fondi europei, la Next Generation. Quello che le stavo dicendo, che non c'è nessun punto di contatto reale tra le forze politiche su queste questioni. Mi dice qual è? Conte si barcamena con gli stati generali, creando le super commissioni, eccetera, eccetera, e ancora non è venuto fuori uno straccio di programma che sia definito. Gli altri, meno ancora. Su che cosa farebbero questa unità nazionale? I due grandi alleati di governo su questo la pensano all'opposto, ma d'altronde è un governo che sappiamo che è nato in maniera un po' strana, ecco. Appunto, e quindi se già i due del governo non sono diciamo così perfettamente d'accordo su queste questioni strategiche, cosa imbarchiamo? Anche Salvini e Meloni per fare che cosa? Per aumentare la confusione. No, ma è chiaro. Quindi è chiaro che non c'è nessuna alternativa. Quindi di cosa stanno a parlare? In effetti, soltanto per posizionarsi in attesa delle elezioni chissà quando, chissà come. Ma infatti, che secondo me non si faranno neanche le elezioni amministrative quest'anno in primavera. Ah, lei dice potrebbero rinviarle. Ma se la situazione dell'epidemia non svolta in modo molto netto, io credo che non verranno rinviate, perché poi tra l'altro è del tutto evidente, sa, che questa seconda ondata dipende anche dal modo in cui ci siamo comportati e non per colpa nostra, perché voglio dire, il fatto di permettere l'apertura delle discoteche o l'andata all'estero è stata una brillante pensata del governo, perché si potevano benissimo tenere aperti i ristoranti e dire alla gente fate le vostre vacanze, ma le fate in Italia e almeno le discoteche restano chiuse. Sarebbe stata una cosa logica. E poi a settembre, le elezioni di settembre non sono state uno scherzo da questo punto di vista. E senta, per concludere, se non dovessero riaprire in presenza le scuole il 7 gennaio, perché sa che cominciano a buttarla lì dicendo non si sa, forse, vediamo. Le scuole secondo me devono riaprire le scuole con tutti i criteri di sicurezza, sapendo che poi i ragazzi, lì parlano i numeri, la percentuale dei giovani è praticamente nulla, quindi perché i giovani non possono andare a scuola? Che gli insegnanti siano protetti, si mettano dietro un palombaro, quello che vogliono, ma i ragazzi devono andare a scuola, perché la scuola non si fa a distanza, non si fa a distanza neanche all'università. Io ho concluso il mio corso scorsa settimana. È una fatica incredibile a parlare davanti al computer a persone che non vedi, sembra di essere un pazzo, non riesci a capire se vieni seguito o sei seguito o non sei seguito, se capiscono o non capiscono. La gente non può intervenire, non può interromperti, non può fare domande, è una pena. Sì. La didattica a distanza, che ne dicano, è una pena. Non è formativa in nessun modo. Sono d'accordo, la vedo da papà di due figli, insomma, di 14-12 anni, è veramente complicata, è un qualcosa di. Quindi le scuole devono essere riaperte, devono. Io la ringrazio, professor Cacciari, mi incuriosisce sempre che quando le chiedono cosa fa a Natale, lei dice: ma cosa vuoi che faccia? Un'orgia, però. Appunto, vuoi che faccia a Natale? Starò con due o tre amici, come ho sempre fatto in vita mia. Va bene, grazie al professor Massimo Cacciari per essere stato con noi alle 9:26 minuti. Allora, adesso noi andremo un attimo in pubblicità, però voglio, come dire, introdurvi nell'argomento che vogliamo affrontare. Non è tanto un argomento, anzi ho sbagliato il termine. Forse vi siete accorti, avete letto i giornali, avete visto la notizia, nei giorni scorsi è morto Nedo Fiano. Nedo Fiano, unico sopravvissuto della sua famiglia ad Auschwitz, uno dei pochi purtroppo testimoni rimasti. Vabbè, conosciamo tutti Liliana Segre, ovviamente senatrice a vita, ma sono sempre meno, vista l'età, i testimoni dell'orrore della Shoah che per anni hanno deciso di raccontare nelle scuole, incontrando i ragazzi, le ragazze, incontrando persone, raccontare l'orrore dei campi di sterminio. Noi tra poco, dopo la pubblicità, avremo ospite Emanuele Fiano, il figlio, uno dei figli di Nedo, e voglio introdurre questa parte di trasmissione con un ricordo. Nedo Fiano venne a trovarci un giorno proprio in questi studi, in questo studio da dove vi sto parlando, era di fronte a me, e fu una esperienza molto emozionante per noi. Devo dire anche per lui, perché Nedo Fiano, quando raccontava di Auschwitz, quando raccontava della mamma soprattutto, ancora a distanza di anni e per sempre la vita, ha provato grandi, grandi emozioni, sentimenti molto, molto intensi. Mamma che ha lasciato ad Auschwitz, ha salutato e poi non ha più visto. E fu una trasmissione incredibile. Oggi magari la metteremo a disposizione come audio sulle nostre pagine di Radio 24. E voglio introdurvi con il racconto dalla viva voce di Nedo Fiano dell'arrivo ad Auschwitz. Partiamo da qui e poi, dopo la pubblicità, sarà con noi Emanuele Fiano. Arriva ad Auschwitz. Pam! Questo è stato l'arrivo ad Auschwitz. Un convoglio è stato volutamente arrestato nella maniera più dura, più atroce. Siamo andati gli uni contro gli altri, ci sono stati dei feriti, urla, pianti da tutte le parti. Vorrei cercare, senza riuscire, spiegare cosa vuol dire una settimana di fame, di sete, di paura, di sporco, senza poter cambiare gli indumenti, senza potersi lavare. Eravamo arrivati a una condizione subumana. Poi era notte fonda, abbiamo visto per la prima volta una ciminiera dalla quale fuoriusciva una fiamma. Abbiamo pensato che fosse uno stabilimento industriale. Non avevamo mai sentito parlare di forni crematori, quindi. E dopo, al mattino, abbiamo sentito passo militare che si avvicinava al nostro vagone e agli altri. C'era un SS con un bastone, un Doberman. A un certo comando hanno aperto il vagone e hanno cominciato a gridare: aussteigen, alle steigen, alle runter, runter los, bewegung, bewegt euch. Questi cani che abbaiavano, e loro con questo bastone infierivano su tutti, fossero donne, bambini, vecchi. Eravamo un gregge che si doveva avviare al mattatoio. I mariti che cercavano le mogli, i figli che cercavano i genitori, e la discesa agli inferi, che nel pensiero rinnova la paura proprio. Poi Männerlings, Frauenrechts, ci hanno diviso a sinistra, a destra, uomini, donne, e la mamma ha detto: Nedo, Nedo, Nedo, abbracciami, abbracciami, non ci vedremo mai più. E così è stato un abbraccio fortissimo, Mamma piangeva dirotto e il mio volto è scivolato sul suo ricordo e poi ci hanno strappato. Uno, nessuno, 100 Milan. Alle 9:33 minuti, allora, con questo racconto che abbiamo mandato di Nedo Fiano dell'arrivo ad Auschwitz, io saluto uno dei figli, Emanuele, buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere qui, ovviamente tutta anche Radio 24 si stringe con grande abbraccio. Insomma, Emanuele Fiano non solo è il figlio, è uno dei figli di Nedo Fiano, è deputato del PD e quindi in questo momento c'è anche un ruolo pubblico, Emanuele, e mi dispiace, insomma, un ruolo pubblico da sostenere, quello del ricordo di un padre, sì. che io ho detto comunque rimarrà per sempre con le sue memorie, e questo è la parte più importante, cioè i suoi racconti non finiranno mai. Sì, questa è la fortuna che hanno gli esseri umani di poter utilizzare la parola e la forza del ricordo, e purtroppo siamo in una fase della nostra storia nella quale i testimoni della Shoah stanno per scomparire, mio padre è scomparso in questi giorni, e dunque è una fase di passaggio del testimone, perché non basterà ricordare, ma bisognerà fare della memoria un atto attivo, la forza di estrarre da quella memoria dei valori, dei principi da applicare. In fondo mio padre ha cercato sempre di trasmetterci questo, non solo il ricordo, ma la scelta di un comportamento morale. Abbiamo parlato tante volte appunto di quando non ci saranno più testimoni, però la fortuna è che questi racconti, queste testimonianze adesso non possono più essere messe in discussione, perché c'è stato anche un momento in cui erano messe in discussione, no? Quando queste persone, dopo anni magari di silenzi, hanno iniziato a parlare, venivano indicate come dire: ma no, dai, non è possibile che questo sia potuto accadere, no? Ma speriamo, Alessandro, che sia come dici tu. Questo penso che sia, a questo mi riferivo quando dicevo che il passaggio del testimone sarà più difficile una volta che, speriamo più tardi possibile, non ci saranno più voci che direttamente raccontano quello che hanno vissuto, perché la lezione che dobbiamo imparare è che coloro che commisero quegli atroci delitti, e non solo quello della Shoah, ce ne sono stati anche altri, seppur diversi magari per dimensione o latitudine, non erano marziani, ma erano esseri umani. Sì. I boia di Treblinka, di Sobibor, di Chełmno, di Birkenau erano giovani tedeschi o austriaci che magari avevano studiato nelle migliori scuole, che avevano letto i libri di Hegel, di Kant, di Fichte, di Schelling, che avevano conosciuto l'arte straordinaria di questa della loro nazione, dell'Europa, che avevano ascoltato la musica di Beethoven, di Chopin. Eppure, se uno legge quel terrificante libro Confessione resa da Franz Stanger, il comandante del campo di sterminio di Treblinka, dove lui sovrintendette personalmente alla gasazione e alla cremazione di 800.000 ebrei polacchi, per dirne uno, e che con un atto abbastanza incredibile alla fine della sua vita rese questa confessione a Gitta Sereni in quel libro, in quelle tenebre, ti rendi conto che furono esseri umani. Quella è la, sì. Erano esseri umani che il fine settimana, se non c'era lavoro, prendevano 2 giorni di vacanza da Treblinka e andavano a curare i gerani nelle terrazzine delle loro case in Austria. Dunque, quella è la lezione fondamentale, sapere che gli esseri umani possono arrivare a quello e che se non faremo memoria sì. duratura di quello che è successo, questo potrebbe riaccadere in altre forme. A questo proposito, io so che hai scritto un libro che uscirà a gennaio, Il profumo di mio padre. A me incuriosisce molto il titolo, ovviamente, perché sono molto curioso e sarò curioso di leggere il testo. Perché Il profumo? Mio padre fu liberato a Buchenwald, l'ultimo campo dove lo portarono in SS. E al momento della liberazione lui era peraltro agonizzante, ma comunque lui ricorda l'ingresso nella baracca di un alto soldato nero americano molto profumato, e questo profumo era il sapone che avevano le truppe tedesche, il Lifebuoy, che è un profumo sì. americano arancione con un profumo industriale, diciamo, ma molto intenso, che dopo papà tutta la vita ha ricercato, che andava a comprare nel mercatino degli americani a Livorno, e che fra l'altro adesso, perché la storia è strana, adesso è, dopo che per anni non l'abbiamo cercato e non più trovato, adesso si trova sulle vendite, sulle piattaforme, ma comunque papà se ne è poi circondato per tutta la vita, e il bagno di casa nostra era pieno di questi panetti, di questo sapone che ricordavano sì. il soldato americano che l'aveva salvato. Sì. Quando venne qui, anche qui ricordò di questo Life Boy, me lo ricordo, il primo profumo, che era il profumo della libertà, sì. insomma, era il profumo della libertà. Sì. Per tanti anni lui, Liliana Segre, come tanti sopravvissuti alla Shoah, raccontano, siamo stati degli Stuck per quel periodo. Cosa vuol dire Stuck? Vuol dire dei pezzi, no? Dei pezzi. Sì, vuol dire dei pezzi. Ma ci sono dei nazisti che hanno raccontato questa questione degli Stuck. Loro stessi venivano, loro SS, venivano portati, e poi lo si capisce dai loro racconti, anche se non lo dicono, a disumanizzare le persone che vanno davanti. Gli veniva insegnato sin dall'inizio della loro attività, per esempio quello Stangl che ti ho citato prima era stato prima di questo un coordinatore dell'eliminazione dei malati psichici, prima Shoah, ci fu questo programma di eliminazione di migliaia di disabili nella Germania nazista. E venivano abituati a considerare chi avevano di fronte non degli esseri umani, perché la disumanizzazione gli serviva per riuscire a commettere così tanti omicidi, perché se gli veniva inculcato di fronte non umani e neanche bestie, ma pezzi, cioè come se fossero all'interno di una fabbrica, e se il prodotto della loro azione non fosse la morte ma fossero delle automobili, allora potevano superare, disfarsene questo. Senza problemi. Allora, io avrei un audio da far sentire, non lo so se Emanuele vuole rimanere con noi, perché immagino è una parte del racconto in cui tuo papà raccontava del ritorno alla vita, ritorno alla normalità, complicato, e di quell'incontro anche con Primo Levi, che ebbe questa grande fortuna di ritrovare la madre, mentre la madre di Nedo, ovviamente tua nonna, morì lì ad Auschwitz. Lo farei sentire questo pezzo di Nedo Fiano. Come ho fatto a riprendere il contatto con la vita quotidiana? Io chiedo, lavoro e famiglia. Il lavoro mi ha fatto riprendere il contatto con le persone, con gli amici, con i meno amici, ma insomma con la società. E la famiglia, è chiaro, quando sono arrivati figli, la vita è stata, ha avuto tutta un'altra musicalità, ha avuto tutta un'altra spinta, però non è che tutti abbiano avuto un ritorno così facile. Posso dire fra tutti Primo Levi, il quale ha avuto la più grande delle fortune, la più grande, quella che tutti abbiamo sognato. Lui è arrivato a Torino, è andato subito nella sua strada, alla sua casa, ha salito le scale e in cima alle scale c'era la mamma che l'aspettava. E se io le dicessi le volte che ho sognato questo, tant'è che quando l'ho incontrato, quando è venuto a presentare se questo è un uomo, ho detto: tu hai vissuto il più grande miracolo che si possa pensare, hai potuto riabbracciare tua mamma. E allora lui dice: ora abbraccio te, mi ha detto, perché effettivamente è stata una cosa singolare. E insomma, Emanuele, questo era il ricordo che ci ha, che immagino tante volte anche a voi in famiglia ha lasciato papà. Chiaramente anche questa separazione così brusca e terribile ad Auschwitz, senza poter rivedere mai più i genitori, è un qualcosa che a me ha colpito quella volta, perché erano passati tanti anni, eppure non, se l'è portata dentro per tutta la vita. Adesso finalmente la rivedrà la mamma. Grazie Emanuele Fiano, grazie per essere stato qui, ovviamente un grande abbraccio. Ripeto, Emanuele Fiano è uno dei figli di Nedo, è deputato del Partito Democratico, che tra l'altro ha avuto anche la bellezza e la forza di raccontare questi ultimi mesi la partenza di papà. Un grande abbraccio, ovviamente. Grazie a voi per essere stato qui. E, che dire, noi questa testimonianza, che tra l'altro negli anni ogni tanto abbiamo riproposto nei giorni della memoria, talvolta ancora ci scrivono, mi arrivano mail, è capitato anche qualche mese fa di un professore di una scuola chiedendo la possibilità di poter avere questo file, questo audio da poter trasmettere e da poter far ascoltare ai propri studenti. È un qualcosa che, se volete, noi possiamo fare, nel senso che oggi lo metteremo a disposizione. Fu una puntata di Viva Voce, quando conducevo il programma Viva Voce, che era in onda alle 9 del mattino. Sono 35-40 minuti di uno straordinario racconto. Ricordo sempre di quella trasmissione che gli feci tre domande, perché non c'era bisogno di fare domande a Nedo Fiano, era in grado di raccontare in maniera così, così efficace, in maniera così intensa, senza bisogno di chiedergli nulla. D'altronde, cosa vuoi chiedere? Sei lì e lo ascolti, e molti ascoltatori lo ascoltarono. Lo metteremo a disposizione, se volete, anche per esempio per la ripresa delle scuole a gennaio, c'è la giornata della memoria. Utilizzatelo questo file, se siete professori per esempio, fatelo ascoltare ai vostri allievi, visto che Nedo Fiano per tanti anni ha fatto questo, ha girato nelle scuole raccontando la propria esperienza. Dai, è il momento del traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 9:47 minuti, Leonardo Manera. Buongiorno. Buongiorno. Sempre presente anche nella settimana di Natale, visto che staccanovista sono. Incredibile, sono un vero staccanovista. Incredibile. ma siamo anche una settimana di Natale. Sì, anche il 24, essere... il 24 sarai con noi. Questo mi sembrerebbe troppo, adesso vedrò, conterò i vertici della radio. Anche 24. Cosa succede? Vabbè, devo dire che oggi hai manifestato una certa ingenuità stamattina. Perché? Devo dire che... Ma quando ancora ti chiedi, ancora ti chiedi se il 7 gennaio le scuole riapriranno o no, beh, ma sei veramente di una grande ingenuità. Ma perché non riapriranno? Mi deludi in questo senso. Ma perché? Tu dici che non riapriranno. È una grande delusione anche umana, ti pensavo più scaltro. No. Te l'ho sempre detto che sei scaltro come persona, invece mi cadi in questa ingenuità devastante nel chiederti ma il 7 chissà se, ma no, ma perché non sei scaltro. Io ci credo. Rivedo le mie posizioni, ma questo sei il simbolo stesso dell'ingenuità, non sei più scaltro, basta. Non sei scaltro, dovresti dire così, non sei scaltro. Vabbè, oggi non ci accogli con rumori, con niente, oggi il gioco... No, oggi no, stavo ascoltando anch'io l'intervista di Emanuele Fiano. Emanuele Fiano, sì. E la scomparsa di Nedo, mannaggia. Allora, caro Leonardo, va bene, allora tu che sei scaltro invece dici qualcosa con la tua scaltritudine, ecco, con la tua scaltrezza, con la tua scaltrità, forza. Mi ero messo di buona lena per cercare di capire le nuove regole del nuovo DPCM di Natale, ben sapendo peraltro che cercando di normare tutto si finisce poi per non normare nulla. È un po' l'illusione della legge che vorrebbe coprire tutti i casi possibili, ma poi si scopre che in ogni norma c'è sempre qualche lacuna che permette agli avvocati, parlo in linea generale, di incunearsi e trovare nuovi spiragli interpretativi. Ma paradossalmente più la legge cerca di coprire i singoli casi, più gli spiragli interpretativi diventano fessure e poi finestre e poi portoni dove tutti cercano di affollarsi, a volte proprio perché le norme sono difficilmente interpretabili. Stavo cercando io di capire come spostarmi, se in una bella festa in famiglia posso portare non so quanti minori sotto i 14 anni, se essere più di un tot in casa rappresenta un reato e quindi in flagranza di reato potrebbero intervenire i carabinieri anche loro in casa, però eventualmente anche i carabinieri sotto i 14 anni. Stavo cercando di capire in base ai colori come e quando posso spostarmi, notando che ci vorrebbe anche una postilla ad hoc per i daltonici. Stavo cercando di affittare una seconda casa nella mia regione o di acquistarla, magari che so, a Seveso, per poter passare qualche giorno in una seconda casa che però sia nella mia stessa regione in Lombardia. Stavo cercando di capire fino a quando avrei potuto dedicarmi allo shopping selvaggio, come spesso definito dai media, brandendo magari portafogli e carte di credito come acuminate alla barde per accaparrarmi gli ultimi regali da sistemare sotto l'albero, albero che peraltro non faccio. Stavo cercando di capire tutto questo quando è arrivata la notizia che probabilmente occuperà molte pagine dei giornali in questi ultimi giorni del 2020 e anche nei primi, diciamo, sei mesi del 2021. Ormai nei vari talk show c'era una certa stanchezza nell'ascoltare i virologi che più o meno dicevano le stesse cose. Attenzione, siamo ancora in piena pandemia, lavarsi le mani, distanziamento sociale, mascherina, tutto il resto. Insomma, quasi quasi eravamo tentati di cambiare canale, eventualmente anche per vedere qualche nuovo tutorial di detto fatto. E invece no. È giunta la notizia che potrebbe dare nuova linfa a tutti i talk show, cioè è già arrivata la variante inglese. È in arrivo la variante inglese che trasmette il virus ancora più velocemente, dicono, e che quindi obbliga le persone ad avere ancora più attenzione. Pare che gli effetti siano uguali a quelli del vecchio coronavirus che ormai cominciamo a conoscere, ma la variante inglese si trasmette più velocemente, perché fino al 70% più contagiosa la versione originale, dicono, maledetti inglesi, maledetti. Lo sapevo che non c'era da fidarsi, il coronavirus è andato al pub e adesso non si controlla più. Via, è andato via di te il coronavirus, ha bevuto troppo, suona il campanello, ma finisco il pezzo. E poi, chissà, aspetta che guardo un attimo chi è. È pronto? Un attimo, aspetta un momento, non posso andare a firmare adesso. No, è un dramma in corso. E poi chissà, dopo la variante inglese arriverà la variante spagnola, quella scandinava, quella portoghese e magari quella tedesca, col virus fino al 70% più puntuale nei contagi. Insomma, la questione si complica sempre per questo Natale in lockdown, che non fosse tristemente, drammaticamente vero per motivi sanitari e sociali, sarebbe già un'ottima sceneggiatura per il prossimo cinepanettone targato Vanzina. Suonano, ho finito suonano, e guardo se c'è ancora. Vai a firmare, vai a firmare. Sì? È andato via. Aspetta. No. Ma è andato via. Era una andato. Firma importantissima, secondo me. Vabbè. Vabbè. È andato, adesso mi toccherà andare a ritirare. Dai, allora, sentiamo degli arrivare. Che seccatura, ma scusa, ma visto che siamo adesso tutto, la scuola non riprenderà, tutto quanto starà fermo, ma non posso fermarmi anch'io, basta, riprendiamo a giugno, faccio un giugno-luglio, farò ricorso al sindacato per essere pagato ugualmente e basta. Basta. Intanto vai a recuperare in posta questo... Non posso, se n'è andato, ma non mi sembrava un postino, sembrava più... Un agguato. Più un agguato, sì. Più un agguato. Vabbè, senti un po', ma vogliamo chiamare Adinolfi, che da un po' di tempo sempre almeno quattro sono. Lorenzo, mi chiami? Lorenzo Nespoli, mi chiami Adinolfi? accogliamolo sempre così, meno quattro, meno quattro sono. Teniamo duro finora, vediamo un po'. Suona, ormai sa che... vediamo un po' se risponde. Sì? Meno quattro. Meno 4 meno che non 4. Può diventare niente prima della fine dell'anno. Meno 4. Questa è la cosa tragica. Meno 4. Non vi ripigliamo più, nel 2020 chiudete avanti. Meno 4. E poi il 6 gennaio c'è Milan Juve, peraltro. Meno 4. E lì è chiusa la storia, e lì è finisce tutto. Ma finisce che? Ma finisce che? E lì finisce tutto, finiscono le telefonate di Milan al mattino. Che dici, Manera? Finisce tutto il 6 gennaio. Dico che Adinolfi dovrebbe avere il buon senso di ammettere che noi milanisti abbiamo fatto un anno straordinario, l'anno solare 2020. Peccato che il campionato funziona. Con umiltà. Dovrebbe fare un atto di umiltà e dire nel 2020 siete stati migliori. Lo juventino che fa l'umiltà. Sì, il mio atto di umiltà nei confronti di una squadra che non vince niente da mai. Cioè, devo dire, l'appassionante sfida col Sassuolo l'avete vinta, perché alla fine li avete cacciati a 8 punti di distanza. Sì, ti ricordo che ci manca mezza squadra, ci manca Ibra, ci manca tutto. Ci sono le giustificazioni. Dimenticavo. Siamo anche con una rosa da sesto posto noi. C'è stato il coronavirus. Sì, c'è stato il coronavirus. Quante cose che sono successe. Senti, ma Leonardo, ma hai letto lo sbobinato dell'esame a Suarez, quello che hanno fatto a Perugia? Ma no, ci hanno fatto vedere le figure, ha detto: ah, qui sì, bambino, porta cocumella, i cocomeri, cocomeri, sì, il bambino porta cocumella, questo è l'italiano. Mettiamola con questa assurda follia. Qual è la posizione di Adinolfi? La posizione di Adinolfi rispetto ai vertici della Juventus, sarebbe interessante. La base, cosa ne pensa dei vertici che hanno... Sempre viva e gloria, perché come possiamo fare senza di loro? Insomma, sono 100 anni che va, no? Più che bene, per cui insomma, non c'entra nulla. Non c'entra, cioè, Suarez ha scelto Perugia perché voleva mangiare. È un giocatore di un'altra squadra, di un altro campionato, non è una cosa interessante. Pensiamo a questo grande Pirlo che finalmente ha messo in campo la squadra vincente. Sei una vergogna. Senti, te l'ho chiesto anche l'altra volta e mi hai detto di no. C'è la crisi di governo? Te lo richiedo, perché pare che va a penultimatum, si va avanti. Ma non c'è la crisi di governo. Allora diglielo, c'è la crisi di governo. È, diciamo, come quando cambi la macchina, hai venduto la vecchia perché sei sicuro di prendere la nuova. L'unica cosa che non c'è sono le elezioni, insomma. Cosa ci cambierà mai se da un Conte passi a un Draghi? La vita delle persone mi sembra abbastanza devastata così, diciamo, ecco, per cui ho capito, però da Conte a Draghi non sarà mica una cosa, mica la stessa cosa. Dice, c'è Conte, c'è Draghi. No. Tu dici che bisogna di fare per il cambiamento, me l'hanno detta sta cosa un sacco di volte, ma ci sono rimasto fregato. Però contesto che tu dica da Conte a Draghi cosa vuoi che cambi, sarebbe un grande cambiamento in realtà. Non ho detto che sia né auspicabile né meglio, non lo so. Dillo, Milan, che problema c'è se lo dici? Non lo so, io penso che non sarebbe un grande cambiamento nella sostanza dei fatti. Vabbè. Se tu lo ritieni invece auspicabile, fallo sapere ai tuoi radioascoltatori, che tanto già sono rincoglioniti di solito. Eccola che insulta i nostri ascoltatori. Diciamo così. Insulta sempre questo da sempre. È così, c'è questa cosa. Ma rivolgiamo loro un augurio. Il nostro grande pubblico, il nostro grande pubblico, non come Adinolfi lo dipingeva. Ma ti fanno andare in onda anche la settimana di Natale, senza pietà, anche Manera. Anche contro Manera, natura, anche contro natura. Manera, ma un'istanza sindacale lì, eh? La settimana di Natale dateci tregua, così davate tregua pure a me, perché anche... io speravo che voi foste in vacanza. Ti dirò una cosa, che il 24 noi siamo in onda, il 23 sera c'è il campionato. Ti dico solo il 24 questo. Anche butto giù la telefonata. Vabbè, noi ci proviamo, tanto stai a meno 4, quindi male che vada. Giovedì stai a meno uno, ma non succederà. Ciao Marione, un grande abbraccio. Dobbiamo andare al giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right, uh-huh. Do it right, do it right. Cosa c'entra il terrorismo? Questo è un virus, fa morire il mondo. Milan, fa indagare Manera sui poteri forti. Non è mica un caso che il paziente inglese sia uscito già nel 1997. Senti Manera. Comunque Milan, quest'anno lo scudetto non me lo toglie proprio nessuno. Siete troppo forti, non vi ferma nessuno. Milan, ma se un rendezvous con la Gioconda vale 80.000 euro, come ci ha detto Mieli stamattina, ma una serata intera con Manera, almeno 800.000, vero? Quale pacco Manera? Quello era il contratto rinnovato di Radio 24, che a questo punto è saltato. Arrivederci. Vabbè. Caro Leonardo, quanto vale una serata in esclusiva con Leonardo Manera? Secondo me. Ma 30 euro, dai. Dai, 30 euro. Vengo via per 30 euro. Accidenti, 30 euro. Senti, ma mi hai mandato una foto, cioè hai mandato una foto degli effetti della variante inglese su di te. E sì. Non è bellissimo, insomma, come foto. No. Insomma, gli effetti sono abbastanza... Pare che sia così, sì. Pare che quelle siano gli effetti che può produrre la variante inglese. Vabbè, peccato non poter mostrare la foto in radio. Vabbè, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, siamo qui fino al 24 di dicembre. Ebbene sì, in diretta. E invece... Quindi è confermato? Sì, è confermato. È confermato il tuo contratto. Fino al 24? Sì, tranne il tuo contratto, è tutto confermato. E che dire, invece... Le scuole si fermano prima, domani in gran parte dell'Italia, penso ovunque. In alcuni casi le scuole sono già chiuse. È successo, ieri lo raccontava Repubblica, è successo in alcune scuole, per esempio alla scuola, il complesso scolastico Console Marcello di Milano, è successo perché c'erano tanti docenti e tanti del personale ATA che hanno chiesto un anticipo di ferie per poter andarsene generalmente al sud, e quindi scuole chiuse. Ci ha scritto un'ascoltatrice, Violeta Lapadat, che salutiamo. Buongiorno Violeta. Sì, salve, buongiorno. Perché ci sono delle mamme arrabbiate nei confronti di professori, maestri che hanno chiesto queste ferie, ecco, come sì, questi permessi, in realtà. Permessi. Buongiorno. Io vi ringrazio per la possibilità che ci avete dato per raccontare comunque il nostro disagio, perché noi siamo arrivati da un giorno all'altro a sapere che da lunedì la scuola sarebbe stata chiusa. Cioè, da oggi. Da oggi, però la comunicazione è arrivata il giovedì tardi, io sono una rappresentante di classe e mi è arrivata questa comunicazione la sera tardi. Sì, l'avevamo sospettato già una settimana fa, si diceva chissà quanti docenti chiederanno e personale ATA chiederanno di andare in vacanza prima per poter spostarsi di regione. È successo. Da voi è successo. Infatti io ho scritto anche alla dirigente reggente, che è la signora Giovanna Mezzatesta, che mi ha risposto che in realtà non sono ferie ma sono permessi erogati, che sono stati erogati 37 permessi. 37? Cioè, 37 permessi. Su un totale di 124 docenti. Accidenti. Ma sono tutti docenti? No, c'è anche del personale ATA, immagino. No, su questo si parla soltanto dei docenti. Ah, docenti, poi 37 su 124, accidenti. Quindi questa cosa qua, noi siamo indignati, perché io non so quante persone riescono ad avere questi permessi, in quale struttura viene chiusa per mancanza del personale. I ragazzi hanno iniziato tardi la scuola, poi la didattica a distanza è stata comunque, ci hanno dato la didattica a distanza per i ragazzi più grandi dalla seconda media. Abbiamo ripreso da poco e adesso siamo fermi di nuovo. Sì, fermi due giorni. No, la cosa che dà fastidio, Violeta, è questa, e molti ascoltatori già ce l'avevano detto. Effettivamente, per una, devo dire, anche una minoranza, immagino, di dipendenti pubblici, poi i professori sono dipendenti pubblici, che chiedono questo, di fatto ci sono scuole che sono state bloccate, come questa del console Marcello. Infatti, perché qua si parla anche di tre plessi dove siamo 1054 alunni, quindi si parla anche dei più piccoli, degli elementari, dove i genitori sono rimasti da un momento all'altro, non si sanno come organizzare, perché i piccolini non è che possono essere lasciati a casa da soli. È chiaro. Poi tutti quanti vorremmo passare le feste in famiglia, ma non lo possiamo fare. Com'è possibile che non riusciamo a capire noi genitori com'è possibile questa situazione qua? Ti ricordi Leonardo Manera? Ne avevamo parlato settimana scorsa, c'era questo rischio e effettivamente... Anzi, fateci sapere, cari ascoltatori, sempre che WhatsApp vada, perché adesso si è bloccato. Ogni tanto si blocca ma poi riparte. Al 349-238-6666, se le scuole dei vostri figli sono chiuse oggi e domani, cioè con un anticipo di vacanze. Dai, questo perché ci sono professori o personale che hanno... avranno pensato visto che poi dal 7 gennaio comunque non si riprenderà, tanto vale cominciare a preparare. No, dai, che si riprenderà. Qualcuno dice: ma non si chiama interruzione di pubblico servizio? Ma in realtà, signora Violeta, hanno chiesto alla dirigente il permesso e il permesso è stato accordato, e quindi è tutto lecito, tutto legittimo dal punto di vista della legge, no? Non lo so, io penso che per me, nella mia situazione, non è così. Io devo scegliere a lavoro, lavorare il giorno di Natale o lavorare il giorno di Capodanno. Entrambe le feste non le possiamo fare. Quindi penso che anche per altri genitori sia uguale. Sì. Questa cosa qua, la circolare parla comunque chiaro, è stato chiuso per dare la possibilità, visto la chiusura delle regioni. Ecco, ma appunto nella circolare c'è scritto la scuola è chiusa per permettere ai docenti, c'è scritto proprio nero su bianco. Sì, c'è scritto per la chiusura delle regioni, c'è questo punto qua. dove c'è scritto che per la chiusura delle regioni e per permettere... dal giorno 19 per permettere di spostarsi. E chi se ne frega? Cioè, nel senso, no, ma lo dico infatti, brutalmente, cioè, nel senso, chi se ne frega? Non è che sono addolorato se un insegnante non può raggiungere la propria famiglia. Però, visto che la situazione è questa per tutti, cosa possiamo fare? La cosa quello che ci domandiamo anche noi, perché la scuola dovrebbe rimanere il calendario scolastico è fino al giorno 22 dicembre. Mm. Sì, effettivamente questa è abbastanza, come dire, un po' da interruzione di pubblico servizio, soprattutto se si scrive la scuola è chiusa perché ci sono le regioni chiuse e bisogna permettere ai professori di andare nelle altre regioni. Ma chi cioè, lo dico, anch'io avrei voluto passare il Natale in Trentino da amici, ma siccome lavoro fino al 24 mi hanno bloccato, e poi dopo riprenderò il 7 e starò in casa come un baccalà, questa è la verità. Come tutti, peraltro, come perché certo. Siamo tutti nella stessa situazione. Infatti l'esempio ai ragazzi non so quale sia, perché per noi genitori diciamo sempre che la scuola viene prima di tutto, però qua rispetto per i ragazzi, rispetto per le famiglie non c'è, perché ognuno pensa al fatto prima suoi. Prima scherzavo, ma secondo me il ragionamento è proprio stato quello. La scuola è stata chiusa così tanto e starà chiusa ancora così tanto che due giorni in più, due giorni in meno non fanno differenza. Ma secondo sai, me il ragionamento finale purtroppo... Sì, un po' è quello, purtroppo è triste così, però in realtà le elementari vanno, le medie adesso sono tornate a scuola e vanno, cioè ci sarà il tema del liceo, però cioè, questi sono professori anche di medie, no? E anche maestri elementari. Sì, medie e elementari, sì, perché è un plesso, sono tre plessi, sono due scuole elementari e una media, dove si trovano sia i piccoli che i grandi, e quindi è vero che ci hanno detto che questi due giorni si recupereranno durante la scolastico, per carità, però questi ragazzi certo. Devono recuperare un anno intero, non soltanto due giorni, perché ne hanno perso di scuola questo periodo, non è colpa di nessuno. No, ma poi però... Violetta, come ha detto giustamente, per permettere a questi docenti di raggiungere le loro famiglie si sono messe in difficoltà altre famiglie, cioè le vostre, certo. Che questi due giorni devono andare a lavorare e hanno scoperto tre giorni fa che devono organizzarsi, magari anche pagare delle babysitter o certo. Questo. Non abbiamo tutti i familiari vicini come altrettanto i professori, quindi qualcuno i ragazzi li deve guardare. Se noi siamo a lavoro non possiamo lasciarli a casa da solo, soprattutto i più piccoli, perché le medie, dalla seconda media già facevano lezioni online. Quindi uno dice va bene, però i piccoli a chi li affidiamo? No, ma è chiaro. Allora, adesso ovviamente ci arrivano messaggi, per esempio ci arriva un messaggio di un insegnante di scuola media, dice la scuola media Don Milani di Perticato funziona perfettamente, ma io sono sicuro, cioè, che sono una esigua minoranza, forse le scuole chiuse addirittura è un'eccezione, quella del Console Marcello, forse sono davvero poche le scuole totalmente chiuse, magari ci saranno delle supplenze. Ma proprio per questo io ho scritto a voi, perché sono comunque certo. Cioè io ne sapevo di poche scuole chiuse, quindi per quello volevo chiuse totalmente, forse solo la vostra, nel senso che si è concentrato un altissimo numero. Ci ha detto 37 su 124 sono effettivamente tantissime percentualmente. Ci saranno magari delle supplenze, dei professori che saltano due giorni, ma scuola totalmente chiusa per questo motivo mi risulta quasi l'unica. Signora Violetta, noi la ringraziamo, mi dispiace. Grazie di essere venuta qui a raccontare e averci scritto. Ma grazie a voi che mi avete dato questa possibilità. Ovviamente tenete duro al complesso scolastico Console Marcello di Milano, oggi e domani non si fa lezione perché dice il DPCM, come cavolo si dice DCPM, vediamolo in modo diverso, DPCM. Permettere ai professori di tornare a casa è stata un'esaltazione dei valori familiari in questo tempo di pandemia. E poi c'è sempre il messaggio che arriva sempre, evviva, volete le scuole parcheggio, ma le scuole parcheggio de che? De che parcheggio? Scusa, guarda, caro ascoltatore, che è un errore il fatto che siano chiuse le scuole in questi due giorni, non un'eccezione che siano aperte. Le scuole parcheggio, cioè uno ha il diritto alla scuola, ha il diritto all'istruzione, scritto in Costituzione, le scuole parcheggio. Dovevi farti una risata, è evidente che... Falla tu, dai. Sai che è arrivato un messaggio sulle scuole parcheggio? Traffico, va. Uno, nessuno, 100 Milan. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time on my ride. Fette, gli insegnanti avrebbero dovuto dare la possibilità di viaggiare anche nei giorni proibiti con un'autocertificazione che giustificasse la cosa, ma non ci arrivano più, non ci arrivano più. Poi sono sempre lì, e perché agli insegnanti? E allora poi c'è l'eccezione per, non so, i dipendenti delle aziende private, e così con le deroghe si riapriva tutto. Vabbè, tra l'altro mi scrive un ascoltatore, chissà cosa pensa il professor Picchio della variante inglese, effettivamente la variante del virus, non so se il nostro... Ma naturalmente, oh, buongiorno. Mi avete chiamato in estremis, sono, sì, il professor Piero Picchio, virologo. Sì, virologo. Lode a te, o virologo, buongiorno. Molto bene, vedo che sta cominciando a imparare le regole della buona, sì, educazione. Naturalmente la variante inglese è molto più pericolosa di quella che conoscevamo prima, quella tradizionale, perché si può trasmettere non solo attraverso il droplet, le particelle di saliva, ma anche solo attraverso un'occhiata. Sappiate che solo un'occhiata? Ma no, sì, dai. Un'occhiata da parte di un'altra persona, sì, può contagiarvi anche a distanza. Quindi qual è l'unica soluzione? Stare a casa. Riordinate le vostre casine, le vostre casette, fate la vostra doccina, il vostro bagnetto, ma rimanete a casa, bene? Gli unici titolati a parlare siamo noi. Non voi ignoranti. No, ma non, il trionfo dell'ignoranza. Ecco, leggete il trionfo dell'ignoranza, l'ultimo libro che sta per mandare in tutte le edicole. Il trionfo dell'ignoranza, dedicato a tutti voi italiani. A lei ha scritto un libro, professor Picchio. Sì, il trionfo dell'ignoranza. Il trionfo dell'ignoranza, va bene. Sì, vorrei dire l'arroganza dei cittadini comuni durante la pandemia. Sì, va bene? Va bene. Che vogliono esprimersi senza sapere nulla. Nulla, va bene. E questo, giustamente un ascoltatore ci dice, giusto, nelle edicole. Andrà nelle edicole? Nelle librerie mi sa che non glielo prendono, il suo libro. Nelle edicole? Nelle edicole vada lei a prendere la raccolta. Lei l'ha detto, furia, nelle edicole. Guardi che lei ha detto nelle edicole. Ma lei si sbaglia probabilmente. No, lei ha detto nelle edicole, professor Picchio. Può darsi sia stato un lapsus freudiano, a forza di parlare con gli ignoranti si diventa ignoranti. Vabbè, senti. Professore, altro da aggiungerci? No, più che altro perché l'ascoltatore non risponde. L'ospite che abbiamo in questo momento non risponde. Quindi, se vuole, bene, proseguire raccontandoci. Finalmente la vostra trasmissione discutibile si fa conoscere da tutti. Si fa sempre più fatica a trovare ospiti, e quei pochi che riuscite a raccattare all'ultimo momento rifiutano di rispondere. Finalmente hanno capito di cosa si tratta. Sarà che stanno tutti a casa. Stanno tutti a casa, forse, come suggerisce. Mi raccomando, per Natale studiate bene le norme del nuovo DPCM, che è stato fin troppo generoso nei vostri confronti, permettendovi di uscire i 3 giorni feriali tra Natale e Capodanno. Vabbè. Se volete evitare la variante inglese, l'unica soluzione è stare a casa. Bene? Va bene, questa, grazie, lode a te, o virologo, caro professor Piero Picchio, la ringraziamo, e a questo punto niente. Guardo con dei cenni strani, mi fanno dei cenni strani, quando secondo te, caro Leonardo Manea, Lorenzo Nespoli mi fa no col dito, fa così da destra a sinistra, che cosa significa? Vuol dire che l'ospite non risponde, si è ritirato all'ultimo momento, oppure ha messo il telefono in modalità aereo. No. per non rispondere. Chi è l'ospite? Chi è l'ospite che non ricordo? No, ma è interessante, è una storia interessantissima. È un autotrasportatore che tra l'altro trasporta molto con la Gran Bretagna, quindi vorremmo anche sapere da lui adesso che cosa succede. Ecco. A questo punto forse è meglio averlo dopo. Avrà la pensato, borsa? No, mi devono chiamare da uno nessuno 100.000. Mettiamo in modalità aereo. No. Ha risposto Angelo Pisa? Sì, ci sono. Buongiorno Angelo, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, è presidente Alessandro. Provinciale di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino e presidente anche di Transport Service, che è una cooperativa che fornisce servizi per autotrasportatori. E tra l'altro so che consegna spesso in Gran Bretagna. Adesso come si fa in Gran Bretagna? Avete già capito? Adesso è un problema. È un problema nel senso che non è solo il famoso virus, che praticamente ci ha un attimino destabilizzato tutti, ma anche il fatto della Brexit, che ci sono queste colonne interminabili, quindi con le conseguenze dell'assalto alla diligenza degli immigranti, e quindi è un po' così, è un po' una situazione particolare. È complicato, perché lì le code sono soprattutto a Calais. È bravissimo, specialmente a Calais, dove i clandestini cercano di passare il confine, cercano in qualsiasi modo di salire sui suoi mezzi, tagliando taloni, spaccando lucchetti, togliendo addirittura i fermi, quelli, le piombature che si effettuano. Quindi sono corse della disperazione, effettivamente. Ci sono tante inchieste giornalistiche anche a riguardo, documentari, purtroppo cercano, come dire, di infilarsi dovunque per ottenere una sorta di salvezza. Esatto. Ma qual è la situazione in Europa? Girando per l'Europa, qual è la situazione peggiore o migliore? Un po' di differenze rispetto all'Italia. Noi parliamo sempre dell'Italia. Assolutamente sì. Noi siamo bravissimi, nel senso che in Italia, dove vado a scaricare quelle poche volte che vado, il personale è sempre protetto da mascherine, distanziamento, sempre il gel in qualsiasi punto di qualsiasi azienda all'entrata e all'uscita per igienizzare le mani, mentre in Inghilterra e in Olanda questi dispositivi non li trovo, mascherine zero. Diciamolo, zero, sempre a pensare gli italiani sono peggiori degli altri. Io ho una cognata che vive in Olanda, mi ha detto: ma gli olandesi, ma non gliene frega niente a nessuno, detta brutalmente. È vero. È diversa anche la normativa, se non sbaglio in Inghilterra non sono obbligatorie all'aperto le mascherine. No, però dentro i depositi dove mobilitano pallet, che sono comunque nei capannoni chiusi, distanziamento poco, e mascherine zero. Gel non l'ho mai visto da nessuna parte, funziona così, tranne che dove sono obbligati anche per farsi vedere, all'imbarco sia dell'Eurotunnel che dei traghetti, tutti gli operatori sono muniti di mascherine. Ma allora perché sempre a dire gli italiani sono indisciplinati? Guardate invece i paesi del nord, guardate, no? Invece forse noi siamo più timorosi, più paurosi, non lo so, forse perché è scoppiata prima da noi, non lo so. Però noi ci comportiamo bene, sì, sia i trasportatori che nelle aziende. Vedo che comunque adoperano tutti quanti le protezioni. Le procedure che praticamente vengono dettate dal governo. Ovviamente in questo momento già molti dicono: beh, ma insomma l'autotrasportatore è un lavoro per lunghe tratte solitario, no? Perché si è soli nell'abitacolo, non è facile. Questo coronavirus credo che abbia aumentato questo tratto, no? Allora, noi già siamo per definizione lupi solitari, però quando arriva il momento della sosta o del ritrovo al ristorante, oppure si telefona ai colleghi dove sei, e ci ritroviamo là, ci diamo un appuntamento, questo praticamente è finita, sì. non esiste più. Anche perché per diverse tratte viaggiamo in compagnia, mentre adesso la compagnia è telefonica. Marche, arriviamo al confine con la Svizzera e là ci fermiamo, prendiamo del cibo d'asporto, perché i ristoranti in realtà dalle 6 alle 22 sono aperti, però sono d'asporto. Poi certo, chiaramente adesso è anche freddo, ci mettiamo in cabina, magari le cabine sono vicine col finestrino aperto, però insomma io qui e là. Cioè quindi cibo, con cibo precotto, portate magari surgelato, ve lo portate, non c'è neanche, non c'è neanche più da fermarsi io, al ristorante. Da parte mia porto delle vaschette con dei primi surgelati da casa, poi quando arrivo negli autogrill lo scongelo e questo uno mi crude e faccio diciamo il classico piatto di pasta. Sì, accidenti. Angelo Pisa, noi ci dobbiamo fermare, insomma, vita da autotrasportatore e anche presidente provinciale di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, così costretta alla solitudine ancora più spinta per il coronavirus, no? Pensateci tutte le volte che vi arrivano anche le merci, ci sono persone che le portano in giro per l'Europa. Andiamo a sentire la borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Chiedo scusa, dicevo, che senso ha far spostare migliaia di persone da nord a sud? Milan, non è un DPCM, è un decreto legge questo. Conte l'ha detto esplicitamente, l'ha pure sottolineato. Ma Nera, sono passato ieri dal bar Jimmy, lo ho in realtà guardato di sfuggita, ma è chiuso? Sì, è vero, un decreto legge, infatti qualcuno ha fatto notare che scadrà tra meno di 60 giorni, che è il tempo che serve per convertirlo in legge in Parlamento, per cui c'è questo pasticcio. A parte che quando l'hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dicevano che entrava in vigore nel Natale 2021, ma poi vabbè, hanno sbagliato. Vabbè, ma qui squiglie. È il Bar Jimmy, sì, ma l'hai già detto che è chiuso. No, il Bar Jimmy in realtà la domenica è sempre chiuso, adesso aveva riaperto gli ultimi giorni invece. Sì. Però ieri era domenica. E però ci hai detto che sta valutando se chiudere. Sì, sta valutando. Come capire tanti, come vanno i prossimi mesi inglesi. I prossimi mesi inglesi, con la variante inglese. Questa cosa della variante inglese ti ha reso stizzoso. Stizzoso e bizzoso. No, si parla già, no? Insomma, già stamattina sentivo da Simone Spezia che si valutano probabilmente nuove restrizioni. Allora, leggo ancora. La scuola adesso si comincia a dire che insomma è difficile che riapra il 7. Sì, ma non per la variante inglese. Pagina 3 della stampa, professor Palù, che adesso è il nuovo presidente dell'agenzia del farmaco, virologo più noto in Italia, è il virologo, è l'unico che ha veramente i titoli, sì, tra l'altro. Ma da lì, ecco, questo l'hai detto anche prima, allarmismo ingiustificato, tutto il resto. Sì, certo, ho capito. Detto che secondo te cosa prevale tra le due? Tra Palù e gli altri? Gli altri. Ecco. No, però dice da quando c'è il virus a Wuhan è già mutato migliaia di volte. Sì, effettivamente adesso c'è questo incubo della variante inglese. D'altronde sì, d'altronde se anche tutti i giornali dicono la variante inglese, arriva la variante inglese, entri nei bar e ti dico c'è la variante inglese. Purtroppo poi da passaparola diventa che c'è la variante inglese. e quindi vabbè, andiamo alla provincia di Milano. Mi sono depresso tantissimo, Manera. No, io non c'entro, no, è la variante inglese. No, no, no, è colpa di non quelli come io, te. Non c'entro io, è la variante è colpa inglese di che quelli ha questi effetti. Te. Tra i vari effetti è c'è colpa anche di quelli come te. È colpa di quelli come te, sì, sì. Mi hai depresso, mi hai depresso. Sei stizzoso, bizzoso e mi hai depresso con la variante inglese. Tu non sei scaltro, sentiamo l'ascoltatore. Diego dalla provincia di Milano. Diego. Buongiorno, sì. Buongiorno Manera, buongiorno Milano. Senta, una domanda. Ascoltavo prima l'intervento del vostro ospite, che sì, è un trasportatore, e sì, parlava un po' del lassismo, della leggerezza, dell'uso delle mascherine in Gran Bretagna, in Olanda, in vari paesi europei. Allora mi ponevo una domanda, mi dicevo, ma in considerazione del fatto che i numeri alla mano siamo i peggiori d'Europa a livello di morti, decessi, per, sì, sì, siamo peggiori per numero di decessi, per percentuale di contagiati e certo, 100.000 abitanti, allora dico, ma allora se in questi paesi stanno meglio di noi e usano così male i dispositivi di sicurezza, mi chiedevo quanto realmente fossero determinanti i dispositivi di sicurezza. Ma no, ma certo, ma, certo, ma no, ma certo che sono determinanti, me l'abbiamo detto varie volte, per esempio, perché in Germania muoiono meno di noi, ce l'aveva spiegato il professor Gattinoni che sta in Germania, è un insieme di fattori. Tra questi sicuramente la sanità migliore in Germania, si spende di più per la sanità, si pagano meglio gli infermieri, noi abbiamo una popolazione più vecchia, da noi gli anziani stanno più coi giovani mentre in Germania no, cioè sono tutta una serie di tanti fattori che ognuno dei quali incide per una certa percentuale e poi il risultato è quello. Non metta in dubbio la questione del lavarsi le mani, dello stare a distanti, della mascherina, se no comunque mettiamo... al momento quest'anno sono sparite per il momento le influenze normali, eh sì, le mascherine ci al momento hanno ridotto molto le influenze normali. Vabbè, la variante inglese, non ne usciamo più. Effettivamente sentivo anche il giornale radio, arriva la variante inglese e basta, adesso siamo... Bisognerebbe capire se tra tutte le mutazioni, migliaia, come si diceva prima, che ci sono state del virus, ce ne sono state altre potenzialmente, diciamo, più contagiose e come mai l'attenzione, se adesso si vada così, proprio concentrando su questa variante, realtà, tra tutte le migliaia realtà, che ipoteticamente, che a quanto pare ci sono proprio state. Perché è l'ultima in ordine di tempo, forse dicono è più contagiosa ma non è più letale e pare che il vaccino vada bene anche per questa, quindi sì, anch'io non capisco tutta questa grandissima enfasi. Però il professor Palù, sempre in questa intervista, visto che tu dici ah ma non prevarrà lui, dice anche per onestà alla fine che lui il 7 gennaio non riaprirebbe se non le elementari, perché dice fino ai 10 anni i bambini si infettano poco e quindi trasmettono poco il virus. Io chiuderei anche le medie, dice il professor, oltre ai, qua si sta discutendo se far riaprire i licei. Il liceo, il superiore, lui dice chiuderei anche le medie al momento, perché forse allora la vecchia proposta di qualcuno, anche virologo, di vaccinare prima i ragazzi, almeno li liberiamo, queste povere bestie in gabbia da mesi, forse non è neanche stupida, ma non lo so, ragiono così a voce alta da depresso per la variante inglese. In realtà io non so nulla di scienza, quindi non è che so di medicina. Quello che so io è che fino a giugno almeno si andrà avanti così, ecco, giusto per dare una buona notizia a tutti. Mamma è una previsione mia, di Leonardo Bonetti Manera, che faccio qui e ora. Qua uno nessuno 100.000, va bene. Però l'hai detto anche con un tono talmente depresso che... Sì. Vabbè, insomma, per tirarmi su di morale ascolterò il traffico. Il traffico. Uno, nessuno, 100.000. Is in me, but can he? potrebbe essere un romanzo di Umberto Eco, la variante inglese. Does anyone really care? Down we're all the same. Trying to hide our pain. Milan, e allora la variante inglese? Effettivamente è un bellissimo titolo di un romanzo, la variante inglese dopo il paziente. Alessandro, sì? Sì. Non posso succede? Adesso perché mi ha suonato il campanello, devo scendere un momento. No, ti prego, scendi, era quello di prima. Devo scendere un attimo. Per vedere, vedi, ah, scendi, scendi. Allora. Un attimo. Aspetta, dai, che devo mettere la mascherina. Metto, sì, la mascherina. Dai, scendi, è uno straordinario momento. Vi giuro, cari ascoltatori, niente di programmato. Vi giuro, un attimo, è un qualcosa che succede. In... Ecco. Metto la mascherina. Va bene. Chiudo da un giro comunque di chiave. Sì, non si sa mai. Scendo, che il vicino di casa. Sai, sì. Ma cosa sarà, beh, secondo, sì, te? E non lo so, visto che è una signora, probabilmente la postina, signora, credo. La postina, va bene, dai, la postina. Va bene, ma ti adesso aspetti qualcosa? Brutte perché... notizie? In genere una, no, multa. Non devo aspettare niente, questa... secondo me è una raccomandata, una, secondo multa. Me, una multa, una multa. Secondo, sì, voi, cari ascoltatori, 349-238-6666, avete pochi secondi per stabilire di che cosa si tratti. Io punto nettamente per una multa, conoscendo peraltro come Leonardo Manera si muove in maniera compulsiva per il traffico di Milano. Multa. Comunque, io, guarda, punterei quando per una cambio multa. Adesso voglio cambiare casa per andare in una casa con la portineria. Attenzione, perché... dicono lettera di licenziamento. È l'agio maggiore nella vita è avere un custode che ti ritira la posta, sì, ti, sì, ritira i pacchi. Questa è... Hai ordinato del sushi, qualcuno dice, qualcuno scrive, sushi? Le lampadine Bellugi, forse un regalo inaspettato, oh, che bello questo, un regalo inaspettato. Ma certo, ma sarà la solita boccia di vino di qualcuno? Ma è scomparso Manera. Ma dove è andato Manera? È scomparso? Sarà stato inghiottito dal... io non lo so, ci ha lasciato così. Qualcuno scrive la mia lettera d'amore, una ammiratrice scrive la mia lettera d'amore, e chi punta per la multa? La finanza in borghese, forse è il ragioniere Crosta che è venuto a bussare a casa Manera. Niente, intanto è totalmente svanito dall'orizzonte Leonardo Manera. Chiamatemi la redazione di Chi l'ha visto, per favore. Forse non regge la linea telefonica in ascensore, questo. Vabbè. Rimaniamo con questo mistero, non solo con un mistero, mi ha creato anche un buco in diretta, cioè nessuno sa cosa fare. Lorenzo vi guarda, Lorenzo Nespoli in questo momento, nei momenti in cui il conduttore ha bisogno di una mano, Lorenzo Nespoli lì dalla parte del vetro che dice, mi guarda e dice, guarda, io non ho niente per aiutarti, niente, perché in questo momento tutti vanno via. Quando c'è un momento di difficoltà in radio, uno va da una parte, uno abbassa la testa, l'alpino si mette la maschera a coprire gli occhi. Tutti che ecco, attenzione! Finalmente è arrivata Melania, dice un ascoltatore, Melania Trump, no. No. Che è successo? Se volete, praticamente era la postina. Sì. Era la postina che mi ha portato una raccomandata del comune di Milano. Aia! Aia. La apro, vogliamo in aprirla in diretta? Sto aprendo. Attenzione, sei in diretta, Leonardo, non esagerare. Allora, avviso di notifica, ah, mediante deposito nella casa comunale. Aia. Gentile signor Bonetti Leonardo. Sei tu. Io sottoscritto, messo notificatore, non ho potuto notificare l'atto agli atti sopra indicati in quanto non ho trovato presso la sua residenza. È quello che ha citofonato persona prima. Persona idonea a ritirare il provvedimento. Ma era si vede che erano passati anche prima. Esatto. Ho provveduto quindi a depositare tale atto in busta chiusa e sigillata con, sì, numero, elenco, eccetera, eccetera, presso la casa comunale Nexive sotto indicata. Va bene. Imposta. Trascorsi 10 giorni dall'invio di questa comunicazione, ti tocca andare. L'atto si intende comunque notificato. Articolo, accidente, 140 del codice procedura civile. Bravo. Distinti saluti. Distinti, ah, basta. Cioè, quindi non sai di che cosa si tratta. ti lasciano, non lo so, ti lasciano così nel mistero, ti dicono di andare a ritirare un atto, forse il messo comunale era prima, dovevi ci dicono subito, è la lettera che ti mandano quando non sono riusciti a mandarti la multa. Amici ascoltatori, bene, allegria. No, scusate, non si fa, non si deve. Ti siamo vicini tutti quanti, soprattutto gli ascoltatori, caro Leonardo. Ti stai blindando in casa. Vai, ti chiudi, guarda che la multa arriva comunque, non è che se ti chiudi a 10 mandate. Tra l'altro sono sceso in pigiama. Sì, sono sceso in pigiama perché non mi sono ancora vestito e ho detto alla postina: può venire lei per favore che io sono ancora in pigiama, può entrare. La postina ha capito delle ambiguità, ha fatto una risata ed è entrata. Ringrazio la postina. Ringrazio la postina, va bene. Perché è il fiatone? È la multa o è la tensione? E la tensione per la notifica. Va bene, caro Leonardo Manera, ci hai regalato un momento di straordinaria diretta. Ora mancano 3 minuti, vedi un po' come cavartela. Cosa vuoi fare? Ma era la casa comunale o la casa circondariale? Ci scrivono. No, si chiama proprio casa comunale. Ci sono, non so se le avete mai frequentate nei momenti in cui non sapete cosa fare. Cos'è una casa comunale? Cos'è effettivamente una casa comunale? Sono degli uffici praticamente dove vengono depositate le notifiche per le quali non trovano i destinatari. Ma non è la posta? No. Sono degli uffici comunali? No. Sì, sono uffici comunali. Nel mio caso è in via Iaccio numero 4. Via, è vicino a casa? Sì, abbastanza. Vabbè, insomma. Ciao. Iaccio numero 4. Oggi quindi hai da fare qualcosa. Poi dopo, domani ci spieghi esattamente di che cosa si... No, e oggi non posso andare, andrò un altro giorno. Bene, chiudiamo con un anticipo di 2 minuti. Va bene, chiudiamo con questa anticipo. Facciamo ampliare di 2 minuti. Di denari e risparmio il pezzo per domani, ottimo. Sì, infatti, tutto questo per una multa. Insomma, sì. Tu per una multa faresti questo, quindi non era neanche l'olio, non era il vino, non era niente di quello che ti sei rimediato con qualche ascoltatore, niente. Va bene, cari ascoltatori, allegria, lo dico io. Che dobbiamo fare alle 10:55 minuti con un minuto di anticipo, una cosa che praticamente non ha precedenti, un po' come il gol di Leao ieri, il più veloce nella storia del campionato italiano. Chiudiamo questa puntata di Uno Nessuno 100.000, un po' di amarezza di Leonardo Manera che dovrà pagare una multa, evidentemente. Noi abbiamo per cosa? Perché ultimamente, tra l'altro, sono molto ligio alle regole della circolazione non pagata stradale. No, l'IMU non pagata è impossibile, non arriva subito, era il 16 la scadenza, ma non è che possono arrivare subito così. Guarda, questo è veramente il trionfo dell'amarezza, perché non solo in questo periodo si può circolare pochissimo in macchina, io la macchina sostanzialmente non la sto usando più, ma quel poco che l'ho utilizzata mi causa... Ma non è detto, adesso tu dici che è una multa. Sai che sono arrivate 2 messaggi di 2 ascoltatrici dicendo che era la loro lettera d'amore? E quindi dai. No, se la loro lettera d'amore poi serve a farmi andare alla casa comunale di via Iaccio 4, non lo so, magari mi hanno dato appuntamento lì. Non lo sappiamo. So che però, dai, cerca di andare oggi, così domani svegliamo il mistero. Oggi devo andare fuori regione. L'autocertificazione e anche il permesso fatto dagli organizzatori. Devo andare a registrare uno spettacolo in streaming al Teatro Toniolo di Mestre. Vabbè, allora fai come ti pare. Vai, non correre, che sennò prendi altre multe. Dopo ti busso. Dai. A domani. Amici ascoltatori, allegria!